أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أناديكم أناديكم أناديكم Bene, un saluto a tutte e tutti coloro che sono in ascolto, come di consueto dai microfoni di Radio Onda Rossa ogni mercoledì speciale Palestina. Trasmissione, diciamo, speciale veramente quella di oggi, nel senso sarà piena di, spero di riuscirci, quantomeno di collegamenti. Ci collegheremo sia con una compagna per farci raccontare, e ne avevamo parlato la volta scorsa, avevamo letto anche il comunicato, però di questi tre giorni contro i ladri d'acqua in Palestina per dire no all'accordo ACEA-Mekerot. La volta scorsa avevamo già letto il comunicato, però ora fra breve ve lo rileggiamo. Oltre a questa corrispondenza per farci raccontare appunto questa tre giorni di mobilitazione, ancora una volta l'insegna all'ampliamento di quella che è la campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, tra le altre cose ricordiamo che in altri paesi europei, insomma, questa campagna, ci sono anche indicazioni addirittura pubbliche, insomma istituzionali, di non creare accordi con società israeliane appunto che operano nei territori occupati palestinesi, e nello specifico Mekerot, che ruba l'acqua pubblica, l'acqua dei palestinesi. E come vi dicevo, però, ci saranno anche altre corrispondenze, proveremo a contattare direttamente, insomma, a Gerusalemme il direttore dell'agenzia Nena News, Michele Giorgio, perché non so se insomma ci sono stati diciamo qualche, non saprete come definirlo, definirei un po' di problemi, nel senso che mercoledì scorso, per chi non avesse sentito la trasmissione, abbiamo fatto un'intervista ad un compagno palestinese, appunto, che criticava in generale, insomma, gli atteggiamenti dei media locali e in particolare, appunto, il modo di coprire le notizie di Nena News. Tra le altre cose, un'agenzia Nena News che noi usiamo spessissimo su questa radio, da cui prendiamo notizie, anche gli articoli dello stesso Michele Giorgio, più volte l'abbiamo intervistato. Quindi, insomma, al di là delle polemiche, ci sembra comunque giusto, cioè abbiamo avuto uno scambio via mail, dare a Nena News l'opportunità, come dire, di replica, ovvero sia di poter rispondere, appunto, a queste critiche, tenendo presente, insomma, una cosa ci tengo a sottolinearla, che è ovvio che quando ci sono delle interviste non c'è da parte, appunto, da parte mia di questa trasmissione, ma neanche da parte, appunto, della radio, il tentativo di imbavagliare nessuno, cioè, come dire, di censurare qualcuno. Ciò non toglie che, appunto, se poi arrivano delle critiche, qualcun altro si può risentire e può dire anche la sua. Certo è che, insomma, questa è una parentesi che qui apro e che qui chiudo, e, insomma, sulla Palestina mi sembra che comunque di polemiche, di critiche, di conflitti se ne aprono tantissimi, e forse il tentativo anche durante tutti questi anni, insomma, di mantenere uno spazio aperto, che sappia prendere un po' random, che sappia prendere, quindi, sia da purtroppo pochissime, e lo ripeto, Nena News è una di queste, l'altra è Infopal, gli altri sono i siti che normalmente, come Free Palestine, come Electronic Intifada, come altri siti, insomma, non mi viene da elencarli tutti, nessuno si offendesse, in realtà a volte non fa in tempo neanche a chiamare tutti, ci sono sembra un po' giustificatoria questa cosa che dico, però è vero che c'è una difficoltà nello spazio anche insomma, di questa trasmissione, a volte a contattare, a far dare voce a tutte e tutti coloro, sia italiani sia palestinesi, a volte anche di altre nazionalità, che comunque hanno rapporti, che tornano alla Palestina, gli stessi compagni che sono stati giù con la carovana a Gaza, insomma, nonostante avessi i loro telefoni non sono riuscita comunque a contattarli. D'altra parte non siamo un'agenzia stampa che sta cioè che deve fare gli scoop, che deve stare puntuale sulle notizie, quindi, come dire, alcuni contatti uno li mette da parte, e al momento opportuno magari proporremmo e vi proponiamo, insomma, interviste, registrazioni, anche corrispondenze indirette, perché credo che comunque farci raccontare la Palestina da voci diverse è una forma di arricchimento, no? Perché poi la quotidianità, appunto, anche quella che, appunto, al solito leggiamo su questi siti, è quella ancora una volta di palestinesi uccisi dai soldati israeliani, di furti di acqua, di scempio della natura, della terra palestinese, come taglio di alberi, costruzione ulteriore negli insediamenti, nelle colonie. Quindi ancora una volta è, come dire, i crimini israeliani quotidiani a cui purtroppo sembra che a volte ci si abitui, no? Noi non vogliamo abituarci a questo, vogliamo continuare a dare voce, certo, giustamente, insomma, come dire, non sempre le voci, e accettare anche in qualche modo le critiche che ci vengono da chi ascolta questa radio. Anzi, sono molto contenta che ci sia tanta gente che ci ascolta, magari si riesce pure a fare qualcosa di più e qualcosa di meglio, e l'obiettivo è sempre quello, per sostenere la lotta di liberazione del popolo palestinese. Quindi brevissimo stacco musicale, poi vi leggerò questo comunicato, poi faremo questa corrispondenza con i compagni, appunto, della campagna contro l'accordo Ashea-Mekerot, e poi l'altra corrispondenza giù a Gerusalemme. Bene, come vi dicevo, insomma, iniziamo la trasmissione di oggi come avevamo promesso la volta scorsa, leggendovi questo comunicato, questa campagna che parte appunto da oggi, 29, nelle giornate del 29, del 30 e del 31, contro i ladri d'acqua, così lo dico io. In realtà nel volantino c'è scritto no ai ladri d'acqua in Palestina, no all'accordo ACEA-Mekerot. Acqua pubblica sì, ma anche limpida e libera. Lo scorso 2 dicembre la CEA, società controllata dal Comune di Roma, e la Mekerot, società idrica nazionale di Israele, hanno sottoscritto un memorandum di collaborazione nel settore delle risorse idriche. Questo accordo non va fatto. La Mekerot è responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani. Sottrae acqua illegalmente alle falde idriche palestinesi, provocandone l'impoverimento. Devia l'acqua del fiume Giordano, riducendone fortemente la portata. Fornisce l'acqua rubata ai territori palestinesi occupati, alle colonie illegali israeliane e a Israele. Rivende ai palestinesi la propria acqua, facendola pagare prezzi più alti. Pratica una sistematica discriminazione nelle forniture di acqua alla popolazione palestinese. C'è chi dice no. Vitens, il primo fornitore di acqua in Olanda, ha interrotto un accordo con Mekerot, motivando la decisione con il proprio impegno verso la legalità internazionale. Esigiamo che la CEA segua l'esempio della Vitens e receda immediatamente dall'accordo stipulato con Mekerot. Chiediamo al Comune di Roma di intraprendere tutte le azioni necessarie perché la CEA interrompa ogni attività di collaborazione con la Mekerot. Nessun accordo con chi ruba l'acqua in Palestina. Fai sentire la tua voce contro l'apartheid dell'acqua. Firma la petizione contro l'accordo ACEA-Mekerot, che la potete trovare sul sito http://tinyurl.com/no-acea-mekerot. Questo comunicato è a firma dell'accordo no ACEA-Mekerot. La loro email è fuorimekerot@gmail.com. Ancora alcune note allegate a questo comunicato sono il coinvolgimento della Mekerot nell'occupazione israeliana, ovvero sia Mekerot è attivamente impegnata nella conduzione e nel mantenimento dell'occupazione israeliana, segue una panoramica delle principali manifestazioni, questo è l'elenco che è allegato appunto a questa campagna di mobilitazione del coinvolgimento, e l'elenco, insomma, come dire, è stato messo a punto da un'organizzazione israeliana che è il Who Profit. Mekerot, primo, sfrutta le fonti idriche palestinesi, fornisce acqua agli insediamenti, trasferisce l'acqua palestinese al di là della linea verde. Nel 1982 l'infrastruttura idrica della Cisgiordania, controllata dall'esercito, è stata consegnata alla Mekerot per la cifra simbolica di un NIS, che sono 0,20 centesimi di euro. Da allora l'azienda funziona come il braccio esecutivo del governo israeliano per le questioni idriche nei territori palestinesi occupati e gestisce una rete idrica che collega con la rete nazionale israeliana. Il 70% dell'acqua assegnata agli insediamenti nella Valle del Giordano occupata proviene dalle perforazioni della Mekerot. L'azienda è il principale e in molti casi l'unico fornitore di acqua per uso domestico e agricolo negli insediamenti israeliani in Cisgiordania, in particolare nella Valle del Giordano. Mekerot gestisce anche la fornitura di acqua alle basi militari israeliane nei territori palestinesi occupati. Ancora, Mekerot rende possibile lo sviluppo della produzione agricola estensiva negli insediamenti illegali israeliani. Nel 2008 il 97,5% dell'acqua fornita agli insediamenti nella Valle del Giordano è stato destinato per l'uso agricolo. L'agricoltura intensiva negli insediamenti illegali israeliani dipende dall'uso di acqua e da altre risorse naturali sottratte alle terre palestinesi occupate. La realizzazione di impianti per l'acqua da parte della Mekerot ha consentito l'ampio sviluppo dell'agricoltura israeliana nei territori palestinesi occupati e contribuisce ai profitti realizzati dagli insediamenti e dai coloni attraverso la cultura e le esportazioni agricole. Mecherot fornisce molto più acqua agli insediamenti che alle comunità palestinesi. Infatti il consumo di acqua pro capite in Israele è 5 volte superiore a quello dei palestinesi della Cisgiordania. 350 litri persona al giorno in Israele, più 400 litri persona al giorno negli insediamenti, rispetto ai 60 litri persona al giorno per i palestinesi in Cisgiordania. L'iniqua distribuzione di acqua tra colonie e comunità palestinesi contribuisce attivamente alla grave crisi d'acqua in alcune parti della Cisgiordania. Per garantire il servizio alle colonie, la Mecherot limita il rifornimento di acqua alla comunità palestinesi. In particolare, negli aridi mesi estivi, la Mecherot riduce o taglia temporaneamente le forniture per le comunità palestinesi, mentre i coloni israeliani della porta accanto continuano ad essere riforniti con quantità illimitate di acqua. Ancora, Mecherot applica all'acqua prezzi discriminatori, facendo pagare prezzi più alti ai palestinesi rispetto agli israeliani. Il prezzo di base che Mecherot fa pagare ai coloni e ai clienti in Israele è di 1,8 nis per metro cubo d'acqua, rispetto alla media di 2,5 nis per metro o cubo per i palestinesi. Il pompaggio intensivo da parte della Mecherot sta riducendo la quantità delle sorgenti e dei pozzi palestinesi. Infatti la sovraestrazione della Mecherot nei territori palestinesi occupati ha ridotto il rendimento attuale e le riserve future della falda acquifera montana e ha causato danni potenzialmente gravi alla qualità dei rifornimenti di acqua sia per gli israeliani sia per i palestinesi. L'eccessiva estrazione ha portato anche ad un forte calo della quantità d'acqua estratta dalle sorgenti palestinesi della valle del Giordano. E ora, dopo appunto queste brevi insomma note per spiegarvi, per chi non l'avesse sentito ovviamente le volte scorse, chi è Mecherot, proviamo a fare questo collegamento. Quindi un po' di musica ancora, Farus, e poi insomma ritorneremo in onda. Michele, torni in onda e niente, non sono riuscita a mettermi in contatto con nessuno dei compagni di cui avevo i telefoni appunto per questa campagna contro i tre giorni, contro l'accordo Acea-Mecherot. Comunque diciamo che oggi alle 17 c'era l'apertura appunto del presidio e vediamo pure a caso che fosse qualcuno di loro che ci sta contattando, visto che squilla il telefono. Domani intanto io vi do gli appuntamenti, alle ore 10 c'è una manifestazione sotto la CEA a Piazzale Ostiense, quindi domani 30, e venerdì 31 alle ore 17 un'assemblea pubblica in difesa dei territori per i beni comuni, quindi tre giorni di presidio permanente per l'acqua pubblica e i beni comuni presso la Regione Lazio. عمر يا رجل. عمر وكل Non ci siamo dimenticati, stiamo avendo grosse difficoltà con i telefoni e stiamo provando a contattare, ma non capiamo se abbiamo i telefoni isolati, che sta succedendo, insomma se c'è qualche problema. Stiamo ancora provando e combattendo con i telefoni. Guarda, quando si dice piove sul bagnato, già siamo frascichi, già abbiamo poco tempo, già vorremmo farvi parlare di tutto. Io stavo giusto dicendo appunto che non riusciamo comunque ad arrivare, a dare spazio a tutti, per cui nessuno si offendesse, eppure le linee telefoniche sono contro di noi. E adesso ci riproviamo a fare queste due corrispondenze e ci proviamo, vediamo se non ci riusciamo con se non ci riusciamo con i compagni appunto di questa campagna, proveremo direttamente a Gerusalemme, insomma cerchiamo di rispettare l'ordine che ci siamo detti, nella speranza insomma che succeda qualcosa per cui i nostri telefoni rifunzionino. Pure i piatti mi si impallano, sta succedendo proprio di tutto, forse sono io che ho qualche energia particolare, assorbo troppo. Riusciamo a stare perfetto, allora veniamo un attimo. Pronto? Oh, finalmente siamo riusciti a prenderla, ecco. Quindi ce l'abbiamo fatta, insomma, quindi vuol dire che per quanto provano col tempo, con tutto, insomma, come dire, a boicottarci, poi alla fine, insomma, come dire, qualcuno sta pure dalla nostra parte, per cui i nostri telefoni rifunzionano. Bene, noi abbiamo appena letto ovviamente il volantino che convocava questi tre giorni. Ho fatto una breve storia della Mäkerott con insomma di tutte le sue, come dire, nefandezze, azioni criminali messe in atto nei confronti dei palestinesi. Abbiamo dato gli appuntamenti, però da te ci volevamo far dire questo presidio iniziato sotto l'acqua, e potremmo dire presidio bagnato, presidio fortunato? Esattamente. Ci sono le persone, diciamo, più determinate qua sotto i gazebo, davanti alla regione, con la volontà di far valere quello che è stato fatto per il referendum sull'acqua in Italia, e come abbiamo detto nel nostro volantino, e vogliamo l'acqua pubblica sì, ma anche limpida e libera. E quindi domani c'è l'appuntamento davanti alla CEA alle 10, e non ci spaventa l'acqua, ovviamente, e staremo lì per tutte, perché anche la CEA fa tante nefandezze con gli distacchi e le tariffe alte. E poi c'è da aggiungere questo accordo con la Mäkerott, che quello che sta facendo la Mäkerott va inserito in quello che fa Israele sull'acqua, con la distruzione di pozzi palestinesi, la impossibilità neanche di costruire pozzi cisterne per raccogliere l'acqua piovana, in questa politica di cercare di costringere il popolo palestinese a lasciare la propria terra. La CEA, facendo accordi con la Mäkerott, vuol dire di legittimare queste politiche israeliane. Quindi vogliamo cercare di convincere la CEA, poi il comune di Roma, che è proprietario per 51% della CEA, di rescindere questo contratto, questo accordo di cooperazione, come è già stato fatto poi in Olanda con il primo operatore idrico in Olanda, che ha già rescisso un contratto, un accordo di cooperazione con la CEA, con la Mäkerott. Quindi vogliamo che la CEA faccia esattamente la stessa cosa. Quindi diciamo che, insomma, mi fa piacere, è la prima volta che in fondo, da quello che stai dicendo, la campagna per l'acqua pubblica italiana, insomma, comunque c'è un'attenzione alla causa palestinese dentro anche una battaglia che è tutta nostra in senso. Certo, c'è questa iniziativa a Roma, lo facciamo insieme con il coordinamento romano, e aderito all'appello il Forum Nazionale per l'Acqua, perché ovviamente questo è un pubblico che è sensibile al diritto all'acqua, quindi conoscendo quello che sta facendo la Mäkerott, credo che per loro era abbastanza scontato a dire all'appello. È un'ultima domanda, perché sotto la Regione Lazio? Perché c'è stato per oggi c'è stato il presidio partito qua, perché c'è una legge regionale di un'iniziativa popolare sull'acqua pubblica che non viene attuato dalla regione, e so che un assessore ha chiamato per incontrare i comitati qua, però dice che adesso è bloccato in consiglio, ma promette di scendere anche se alle 8 scende al presidio. Staremo a aspettare qua sotto il gazebo. Quindi adesso il presidio è lì, continua fino appunto che qualcuno non vi riceverà. Domani mattina invece alle 10 a Piazza Ostiense sotto la CEA, e il 31 questa assemblea pubblica in difesa dei territori e dei beni comuni, e aggiungerei anche dei territori palestinesi, e ancora una volta sotto la regione Lazio. Esatto, sì, torniamo qua alla regione. Bene, non so se vuoi aggiungere delle cose, se no appunto sicuramente poi la settimana prossima magari lo riaffronteremo, vedremo, faremo anche una valutazione di come sono andati questi tre giorni, però se vuoi dire ancora altro. Sì, aggiungo solo che la CEO ovviamente non opera solo a Roma, ma anche nel Frosinate, nella Campania, in Toscana, quindi noi faremo un appello a tutti i comuni serviti dalla CEA di attivarsi per fare pressione sulla CEA di recedere da questo contratto, quindi chiederemo una mano alla gente in questi comuni di fare pressione. Non è una questione che riguarda solo Roma, quindi cerchiamo di allargarci. Bene, non sapevo che la CEA si era allargata così tanto. Bene, io ti ringrazio, un saluto a tutti i compagni che stanno con te sotto il presidio, tutta la nostra solidarietà, e sicuramente la prossima settimana insomma riusciremo, insomma spero di averti qui per fare un punto con te della situazione e magari appunto parlare ulteriormente di questa campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Va bene, grazie a voi. Ciao ciao. Ciao. Bene, allora adesso velocemente, c'è prima che gli succeda qualcos'altro, l'altra corrispondenza. dire, questa oggi veramente difficile, insomma, con i telefoni. E comunque non disperate, come ci abbiamo messo un po' a contattare i compagni del presidio per contro l'accordo per l'acqua pubblica, per quindi dei comitati Acqua Pubblica Lazio, ma anche dei compagni appunto che aderiscono alla campagna contro l'accordo Acea-Mekerot. Ci metteremo un po' anche per contattare appunto Michele Giorgio giù in Palestina. Come dicevamo, insomma, nella news Michele Giorgio, che adesso lo contatteremo e poi ci parleremo direttamente, sia per chiarire, cioè, insomma, ci dispiace che se la sono presa così tanto di questa intervista che abbiamo fatto con questo compagno palestinese. Nel frattempo, mentre proviamo a contattarlo, vi volevamo leggere un articolo proprio preso da Nena News. Appena ovviamente abbiamo il collegamento, interrompo l'articolo, non risponde, vabbè, ci riproveremo fra un po'. Un'arca fa rinascere il porto di Gaza. Questo è un articolo di Chiara Cruciati, anche lei una redattrice di Nena News, e parla della Gaza Ark, ed è un'intervista appunto di Nena News a Charles Anderson. Dice: quando raggiungeremo le acque internazionali grideremo al mondo che il porto di Gaza è aperto. È un articolo uscito oggi sul sito dell'agenzia. Ci racconta un po' la situazione di Gaza. Dice: al tramonto il porto inizia a svuotarsi, i pescatori salgono su jeep datate o sulle motociclette parcheggiate fuori e tornano verso casa. I poliziotti all'ingresso del porto di Gaza City restano seduti nel piccolo gabbiotto. Donne e bambini camminano lungo il porto, alcuni si siedono a scambiare due chiacchiere sotto al monumento in memoria dei 9 attivisti turchi uccisi dal comando israeliano al largo di Gaza il 30 maggio 2010. Accanto sventola la bandiera turca, vicino a quella palestinese. A pochi metri dal memoriale per la Mavi Marmara, nave che tentò 4 anni fa di rompere l'assedio di Gaza, portando con sé aiuti umanitari per la popolazione gazawi, sta la nuova arca di Gaza. A simboleggiare il nuovo tentativo palestinese internazionale di liberare la striscia dal blocco marittimo imposto da Israele. Stavolta però non si prova ad entrare, ma si prova ad uscire. L'obiettivo della missione prevista per la prossima primavera non sarà quello di portare beni dentro Gaza, ma di esportare fuori i prodotti dall'enclave palestinese. Tutto è cominciato nel 2012 con Ship for Gaza, un'organizzazione svedese che ha cominciato la sua missione con la nave Estelle nella seconda Freedom Flottiglia, ci spiega Charlie Anderson, volontario impegnato nella costruzione del nuovo vascello, l'Arca di Gaza. Ora l'obiettivo è cambiato: rompere l'assedio dall'interno. Da quasi un anno stiamo costruendo questa nave insieme a operai e ingegneri palestinesi. Tutti vengono pagati, è un progetto gazawi e non solo internazionale. Dovrebbe essere completata a primavera, quando salperà con a bordo 12 internazionali, personaggi noti, giornalisti, politici, per accendere l'attenzione globale sulla missione. Saliamo sulla nave di legno lunga 24 metri e con un cargo di 40 metri quadri. Al suo interno ospiterà non solo attivisti, ma porterà con sé anche prodotti agricoli, olio d'oliva, datteri, spezie, tappeti, stoffe, ricami, tutti bene prodotti a Gaza, perché, come spiega Charlie, non cerchiamo aiuti umanitari ma commercio. I prodotti possono essere già acquistati nell'home page della Gaza Sark. E una volta abbiamo in diretta? Perfetto. Allora, scusate, interrompiamo. Pronto? Pronto? Pronto? Sì, pronto. Oh, ciao Michele. Sì, eccomi. Sei in diretta. Finalmente riusciamo a sentirci, oltre che scriverci, insomma, via email. Ho raccontato prima, all'inizio di questa trasmissione, insomma, perché cosa è successo, insomma, che vi siete un po' presa, insomma, se, dell'intervista che la volta scorsa ho fatto con questo compagno palestinese, e giustamente, cioè, ci scrivevamo, insomma, di darvi, come dire, la possibilità di rispondere a queste critiche, a queste accuse, che però mi sembra che non erano solo nei vostri confronti, erano un po' nei confronti di tutta la stampa locale. Quindi a te chiederei sia, insomma, di spiegare insomma, quello che mi dicevi, insomma, del perché, insomma, no? Questa critica anche, sì, insomma, mi colpisce tanto. Purtroppo io difendo a tratti, non ho capito bene tutta la domanda, più o meno ho intuito il senso. Noi ti sentiamo bene, invece. Posso dire, Vai. Quello che posso dire è questo, che pur comprendendo le ragioni di Bilal, credo che così si chiami questo giovane palestinese che avete intervistato, perché alcune delle sue considerazioni sono sicuramente condivisibili, se parliamo dell'atteggiamento in generale della stampa, anche quella internazionale, ma non solo, anche quella locale. Allo stesso tempo però nel fare di tutta l'erba un fascio è assolutamente sbagliato. Io credo che i palestinesi, a maggior ragione oggi che c'è una forte indifferenza da parte del mondo verso la loro causa, verso i loro diritti negati, verso tutto quello che accade in Palestina, dovrebbero avere sempre la capacità di distinguere gli amici dai nemici e non mettere tutti nello stesso calderone. Qualcuno forse mi conosce più come corrispondente del Manifesto dal Medio Oriente che come direttore, se così si può dire. Io firmo la testata di Nena News, però insomma sia attraverso le pagine del Manifesto e visto che parliamo direttamente di Nena News, mi pare che almeno da parte nostra ci sia l'intenzione quotidiana di cercare di riferire quello che accade in Palestina e raccontarlo anche in un certo modo, perché non basta riferirlo ma che far capire alle persone quello che accade. Ci proviamo, sicuramente molte cose le manchiamo, ma d'altra parte, come abbiamo scritto anche nel nostro comunicato, non siamo supereroi, non possiamo essere in ogni punto, e lo stesso Bilal, se aveva delle notizie da darci, poteva anche, come dire, darci un colpo di telefono, contattarci, sollecitarci a raccontare con più frequenza quello che accade nel suo campo profughi, il campo di Haida. Venire in Italia e lanciare accuse a 180 gradi contro tutto e tutti è sicuramente sbagliato e non fa l'interesse della causa palestinese. Detto ciò, è chiaro però che anche lui ha la sua parte di ragione quando fa riferimento ad un'informazione che sicuramente è schierata una parte che ben conoscete in grande maggioranza e che non riesce più, non vuole più dare conto di quelle che sono le ragioni di un popolo che vive sotto occupazione, che vive oppresso, al quale vengono negati dei diritti fondamentali non da pochi giorni ma da decenni. Ma in realtà sì, questo che dici, insomma, concordo perfettamente. Probabilmente anche, insomma, come dire, gli attacchi di Bilal venivano anche perché pure qui noi abbiamo, insomma, come dire, avevo letto delle vostre notizie, però la cosa specifica che lui diceva è che, insomma, c'è una redazione molto vicina al suo campo, che il campo è passato sotto la gestione diretta israeliana, quindi è diventato zona C, e al di là della situazione, insomma, di scontri quotidiani e altre cose, c'è una particolarità che non viene colta a fronte di una vicinanza, anche di un tentativo. Lui diceva che noi, sì, l'ho chiamati, perché è ovvio che pure io gli avevo detto, vabbè, ma insomma, uno fa di sentire. Ma io credo che Bilal stia un po' confondendo le cose. Io ho capito a cosa si riferisce. Allora, innanzitutto, Nena News non ha una redazione vicino, nei pressi del campo profughi di Haida, perché non ha una redazione Nena News. Siamo dei giornalisti, solo due di Nena News, io ed un'altra persona, Chiara Cruciati, poi ce ne sono altri tre, siamo cinque in tutto, che sono invece in Italia e che ci danno una mano per il lavoro, definiamolo redazionale, di desk. Non abbiamo una redazione lì vicino. Io ho l'impressione che Bilal confonda Nena News con un'altra struttura di informazione che è situata a Beit Saour, ma che, con la quale noi però non abbiamo nulla a che vedere. C'è solo un contatto occasionale dovuto semplicemente ad uno scambio di informazioni, ma noi non facciamo parte di quella struttura e non siamo vicini al campo di Haida. Detto ciò, è chiaro che è nostro impegno cercare di seguire con più attenzione altre situazioni che forse non abbiamo trascurato, ma che non abbiamo fatto in tempo a seguire con attenzione, perché, come ripeto, quando si è in due bisogna coprire. Noi poi di Mena News non copriamo solo la Palestina, non siamo un'agenzia palestinese, perché il nostro nome Mena News sta per Near East News Agency, cioè agenzia stampa vicino Oriente. Noi copriamo tutto il Medio Oriente, come potete vedere dalle nostre notizie che sono lì sul sito, e quindi non è semplice essere davvero dappertutto. Per cui credo che Bilal abbia confuso la nostra redazione inesistente con la redazione di un'altra struttura informativa palestinese che si trova a Beit Saour, che effettivamente non è lontana appunto dal campo di Haida. Però ripeto, io voglio anche capire tutte le ragioni di Bilal e di capire quello che è il suo risentimento, però allo stesso tempo ritengo oltremodo sbagliato per un palestinese andare in Italia e in ogni occasione d'incontro, perché malauguratamente non lo ha fatto solo dai microfoni di Radio Onda Rossa, che tra l'altro è una radio di riferimento di Mena News anche per la sua colorazione politica, ecco, andare lì e sparare a zero contro tutto e tutti, lanciando accuse molto generiche, molto, diciamo, anche confuse, mentre invece bisogna affrontare il discorso dell'informazione con discorsi seri. Io ripeto, ha tutte le ragioni, però non sempre tutte le cose che dicono i palestinesi sono corrette, e questo è anche un dato che dobbiamo considerare. Sicuramente i giornalisti sbagliano, noi compresi, e tanto, però non è detto che tutte le cose che vengono dai palestinesi in Italia o nella loro terra siano necessariamente corrette solo perché le dicono dei palestinesi. Bene, sì, no, in effetti su questo, come dire, non ci piove, anche se qui a Roma invece sta piovendo tantissimo. È ovvio che il confronto è aperto, soprattutto con quelle realtà dei compagni palestinesi, insomma, in cui si ragiona non solo sul rapportare una notizia, ma anche, come dire, su alcune prospettive, sul come valutare, insomma, alcune mobilitazioni, azioni, e anche il tentativo di portare la solidarietà giù in Palestina, no? Infatti, insomma, nell'intervista usciva fuori non solo una critica ai mezzi di informazione locali, internazionali, compresi voi, anche una critica però alla cooperazione internazionale, alle ONG, siano esse palestinesi, siano queste internazionali. E anche su questo, insomma, come sappiamo, c'è un bel punto di domanda, belle riflessioni aperte, perché credo io personalmente che anche in Palestina, insomma, come dire, questa dipendenza estrema dagli aiuti umanitari, questa eccessiva angelizzazione, come anche scrivete voi, insomma, nell'articolo, perché oggi leggevo l'intervista di Chiara Cruciati, insomma, sull'Arca a Gaza, il tentativo è proprio l'opposto, insomma, quella di rompere questa dipendenza degli aiuti, ma far sì anche che riparta un'economia, quindi di fatto chiedere una libertà di movimento per i palestinesi, non tenerli chiusi dentro alcuni recinti. Perché da questo punto di vista trovo abbastanza, o se no completamente d'accordo con le tue considerazioni, anche in parte con quello che c'è lo stesso. È indubbio che il problema dell'umanitario, di una cooperazione che cerca unicamente di portare aiuti umanitari senza invece andare a fondo di quello che è il problema palestinese, che è un problema squisitamente e quasi esclusivamente politico. Se ci sono problemi legati all'economia, legati all'umanitario, legati a determinate risorse che non ci sono, tutto questo è frutto esclusivamente dell'occupazione, che non consente ai palestinesi di poter avere una loro economia, una loro vita, di poter realizzare i loro diritti nella loro terra. Quindi è chiaro che c'è un grosso problema sul come si concepisce la cooperazione per quanto riguarda la Palestina, ed è un discorso che i palestinesi stessi, in minima parte, malauguratamente, stanno affrontando, perché si rendono conto dei gravi pericoli e gravi rischi che questa cooperazione comporta per la realizzazione dei loro diritti. Allo stesso tempo però dobbiamo anche essere consapevoli di un fatto, che come parlavamo prima della stampa, dell'informazione, non è giusto fare di tutta l'erba un fascio, bisogna anche dire che ci sono alcune ONG, anche italiane, che lavorano molto bene nei territori palestinesi, così come ci sono anche delle iniziative internazionali che lavorano in modo positivo per i palestinesi. Naturalmente stiamo parlando di una frazione buona di questa cooperazione malata, però anche in questo caso mettere tutti nello stesso pentolone non è corretto, non è giusto. È un problema però che devono affrontare e che soprattutto i palestinesi devono trovare. Io d'altra parte lo vado ripetendo da tantissimo tempo, c'è un grosso problema in casa palestinese, è quella di un'assenza di leadership. Non c'è leadership in Cisgiordania, non c'è leadership a Gerusalemme Est, non c'è una leadership anche nella striscia di Gaza. Ognuno pensa al potere, a conservarlo e a mantenere le sue posizioni, ma nessuno lavora tra questi leader veri e presunti per l'interesse di tutto il popolo palestinese. Ecco, io quello che mi auguro per loro come osservatore, come giornalista, è quello che riescano a trovare la forza per darci una nuova leadership completamente diversa da quelle che vediamo oggi rappresentate nei vari territori spezzettati della Palestina, per far sì che possano effettivamente darsi una piattaforma politica nazionale e raggiungere quelli che sono i loro diritti. Ma devono essere soprattutto loro ad avere la capacità di darsi questa nuova leadership, anche diciamo di liberarsi di quella vecchia, di quella attuale anzi, e allo stesso tempo anche di metter fine a questa cooperazione di cui parlavamo prima e che non fa i loro interessi, i loro veri interessi. Bene, guarda, io ti faccio un'ultima domanda, ne approfitto proprio perché stai a Gerusalemme, no? Una notizia che leggevo questa volta da un'altra agenzia, perché io spesso uso voi ma uso anche Infopalla per prendere appunto le news dirette dalla Palestina, è che fra poco verrà creata una strada che dividerà il villaggio di Beit Safafa proprio a sud di Gerusalemme. Chiaramente questa notizia era ieri su Nena News già, con un lunghissimo servizio, scusa se te lo dico. Ah, scusa, no, ieri mi è sfuggita, va bene, scusa. Perché noi le cose le scriviamo, sì, sì. Guarda, basta leggersele. Sì, sì, non lo metto in dubbio, infatti mi è sfuggita, scusa. No, infatti ti dicevo, però ne approfitto per farti spiegare qualcosa di più. Insomma, io ho letto velocemente, insomma, come news su quest'altra agenzia, quindi a te ti chiedevo se puoi dirci qualcosa di più così in diretta, senza che vada a recuperare l'articolo di ieri. Pronto? Mi senti? Pronto? È caduta la linea, non sento più niente. Pronto? Pronto. E va bene, sul fatto che mi dispiace, è caduta, insomma, voglio dire, anzi, che siamo riusciti a parlare per buoni 20 minuti, e mi dispiace che non siamo riusciti neanche a salutare Michele Giorgio. Vabbè, lo saluto, magari avrà modo di risentire, o per chi sente questa radio anche via streaming, quindi lo ringraziamo per la sua corrispondenza. E gli chiedevo questa notizia, ma visto che mi ha detto che ieri è uscita pure su Nena News, ora andrò a recuperare la notizia. A volte mi sfuggono, non riesco, se pure io, come dire, a riuscire a fare di tutto. Quindi brevissimo stacco musicale, torniamo poi alla fine dell'articolo di Chiara Cruciani su Gaza e poi torniamo su questo articolo. الشتوي فايق علي علي noi ci avviamo ovviamente alla conclusione della nostra trasmissione. Finisco di leggervi questa intervista di Chiara Cruciati, che è uscita oggi su appunto Nena News, lo ricordiamo, _globalist, no scusate, nena-news.globalist.it, che parla di Gaza, parla di questo tentativo di invertire, invece di far arrivare aiuti a Gaza, di costruire appunto una nave dentro Gaza, un'arca appunto, che in primavera possa uscire e portare i prodotti gazawi all'esterno. Intervista, come vi dicevo, la trovate oggi. I prodotti possono essere acquistati nell'home page della Gaza Sark e, una volta lasciato il porto di Gaza, giungeranno a destinazione, o almeno questa è la speranza della campagna internazionale. Non credo che questa volta la marina israeliana ci attaccherà. Questo è il pronostico di Charlie, mentre ci mostra le cabine, il bagno, la cucina in costruzione a bordo. Stavolta non tentiamo di raggiungere Gaza, ma di uscirne. Se riusciremo a raggiungere le acque internazionali, lanceremo subito il nostro messaggio. Il porto di Gaza City è di nuovo aperto al commercio. Un porto chiuso dal 67, trasformato da uno dei principali scali del Mediterraneo a mero approdo per le piccole imbarcazioni dei pescatori gazawi, senza alcun tipo di collegamento con il mondo esterno, e la lente morte del porto di Gaza continua. Dal 2000 ad oggi la produzione è calata di oltre il 40% e il numero di pescatori è crollato. Oggi vivono delle scarse entrate derivanti da una lunga giornata in mare, solo 3.000 persone, il 42% in meno del 2000. Secondo l'agenzia ONU OCHA, sempre più numerosi gli attacchi compiuti dalla marina israeliana contro i pescatori palestinesi, obbligati a restare entro le 3 o le 6 miglia nautiche dalla costa, nonostante gli accordi di Oslo pongano il limite a 20 miglia. Il bando alle esportazioni della striscia è uno degli elementi più pericolosi dell'assedio, continua Charlie, perché danneggia in profondità la struttura gazawi, produttiva gazawi. È più pericoloso del blocco delle importazioni, in qualche modo, perché non permette uno sviluppo sostenibile. Come fa Israele a giustificare con la questione della sicurezza il blocco delle esportazioni? Che tipo di minaccia rappresenta? Oggi Gaza riesce a far uscire solo le fragole verso l'Europa, ma non in Cisgiordania, il suo mercato naturale. Inoltre, con il confine di Rafah bloccato dall'Egitto, oggi l'unico varco verso l'esterno resta quello di Kerem Shalom, controllato da Israele. Ciò si traduce in ritardi, controlli eccessivi, burocrazia insostenibile, costi molto elevati, molto più elevati del normale. Così Israele genera un ulteriore profitto. L'arca di Gaza rappresenta la nuova sfida lanciata dal popolo gazawi, sostenuto dalla coalizione internazionale della Freedom Flottiglia, movimento dal basso fatto di campagne e iniziative promosse in tutto il globo. Obiettivo: spezzare l'embargo, ricreando quella rete commerciale che nel secolo scorso aveva fatto del porto di Gaza uno dei centri del Mediterraneo. Questa, lo ripeto, è l'intervista che potete trovare sul sito di Nena News, realizzata da Chiara Cruciati, appunto, su con Charlie Anderson, che appunto sta lavorando nel porto di Gaza per costruire questa nuova arca. خدني Bene, sì, in effetti ho chiesto appunto a Michele di parlarne, però intanto vi dico, lo potete trovare questo articolo sull'autostrada che dividerà in due Gerusalemme, che taglierà in due, anzi più che Gerusalemme, questo villaggio a sud di Gerusalemme che è Beit Safafa. L'articolo lo potete trovare anche su Nena News, è a firma di Roberto Prinzi, è appunto uscito ieri e sta sulla sinistra del banner, magari appunto c'è per questo a volte uno alcune cose sfuggono. È un progetto israeliano, cioè ovviamente di collegare la capitale israeliana con i territori cisgiordani occupati, e non è una cosa nuova. La novità qual è? È che la corte distrettuale di Gerusalemme, che aveva già respinto una petizione dei cittadini del quartiere, praticamente dà il via libera alla costruzione di questa nuova autostrada. Noi con quest'ultima notizia vi salutiamo, un saluto ovviamente particolare va a tutte e tutti coloro privati della propria libertà. Anzi, prima della sigla vi ricordiamo comunque l'appuntamento di domani alle ore 10, manifestazione sotto la Scea, piazzale Ostiense, per dire no all'accordo a Scea-Mekerot, per dire che l'acqua deve essere non solo no ai ladri d'acqua in Palestina, per dire che l'acqua sì deve essere pubblica ma anche limpida e libera.